Capitolo 32. Giacobbe continuò il suo cammino e gli vennero incontro degli angeli di Dio. Come Giacobbe li vide, disse: «Questo è l'esercito di Dio». E chiamò quel luogo Maanaim. Giacobbe mandò davanti a sé dei messaggeri a Esaù, suo fratello, nel paese di Seir, nella campagna di Edom, e diede loro quest'ordine: «Direte queste cose a Esaù, mio signore. Così dice il tuo servo Giacobbe: io ho abitato presso Labano e vi sono rimasto fino ad ora. Ho buoi, asini, pecore, servi e serve. Io mando a dire al mio signore per trovare grazia ai tuoi occhi». I messaggeri tornarono da Giacobbe dicendo: «Siamo andati da tuo fratello Esaù ed eccolo che ti viene incontro con 400 uomini». Allora Giacobbe fu preso da gran paura e angoscia, divise in due schiere la gente, le greggi, gli armenti, i cammelli che erano con lui e disse: «Se Esaù viene contro una delle schiere e la batte, l'altra che rimane potrà salvarsi». Poi Giacobbe disse: «O Dio d'Abramo, mio padre, Dio di mio padre Isacco, o Signore, che mi dicesti: torna al tuo paese dai tuoi parenti e ti farò del bene. Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usata e di tutta la fedeltà che hai dimostrata al tuo servo. Perché quando passai questo Giordano avevo solo il mio bastone e ora ho due schiere. Liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù, perché io ho paura di lui e temo che venga e mi assalga, non risparmiando né madre né figli. Tu dicesti: certo io ti farò del bene e farò diventare la tua discendenza come la sabbia del mare, tanto numerosa che non la si può contare». Egli rimase lì quella notte e di ciò che possedeva prese di che fare un dono a suo fratello Esaù. Duecento capre e 20 becchi, 200 pecore e 20 montoni, 30 cammelle che allattavano e i loro piccoli, 40 vacche e 10 tori, 20 asine e 10 puledri. Li consegnò ai suoi servi, gregge per gregge separatamente, e disse ai suoi servi: «Passate davanti a me e lasciate qualche intervallo tra gregge e gregge». E diede quest'ordine al primo: «Quando mio fratello Esaù ti incontrerà e ti chiederà chi sei, dove vai, a chi appartiene questo gregge che va davanti a te, tu risponderai: al tuo servo Giacobbe, è un dono inviato al mio signore Esaù. Ecco, egli stesso viene dietro di noi». Diede lo stesso ordine al secondo, al terzo e a tutti quelli che seguivano le greggi, dicendo: «In questo modo parlerete a Esaù quando lo troverete, e direte: ecco il tuo servo Giacobbe, egli stesso viene dietro a noi». Perché diceva: «Io lo placherò con il dono che mi precede, e dopo soltanto mi presenterò a lui. Forse mi farà buona accoglienza». Così il dono andò davanti a lui ed egli passò la notte nell'accampamento. Quella notte si alzò, prese le sue due mogli, le sue due serve, i suoi 11 figli, e passò il guado dello Yabok. Li prese, fece loro passare il torrente e lo fece passare a tutto quello che possedeva. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata, mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: «Lasciami andare, perché spunta l'alba». E Giacobbe: «Non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto». L'altro gli disse: «Qual è il tuo nome?». Ed egli rispose: «Giacobbe». quello disse: «Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini, e hai vinto». Giacobbe gli chiese: «Ti prego, svelami il tuo nome». Quello rispose: «Perché chiedi il mio nome?» E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: «Ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata». Il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel, e Giacobbe zoppicava dall'anca. Per questo, fino al giorno d'oggi, gli israeliti non mangiano il nerbo della coscia che passa per la giuntura dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la giuntura dell'anca di Giacobbe al punto del nervo della coscia.